24, la storia. La storia vera di Giovanni Falcone non va ricordata soltanto per quello che lui ha fatto contro la mafia, va ricordata anche per quello che altri hanno fatto contro di lui. Alle 17.58 di sabato 23 maggio del 92, una potentissima carica di tritolo piazzata sotto l'autostrada uccide il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. È la strage di Capaci, uno dei momenti più tragici dell'Italia repubblicana. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la storia di Giovanni Falcone, non soltanto un eroe del quotidiano, un magistrato che ha scelto di combattere la mafia, sapendo benissimo il rischio che correva, ma soprattutto la storia di un uomo solo. Oggi ripercorriamo i mille ostacoli che ha dovuto affrontare per poter lavorare, gli attacchi che ha dovuto subire, le difficoltà che gli sono state opposte anche dall'interno della magistratura stessa, in ogni modo pur di impedirgli di fare il suo dovere. I misteri di un attentato ancora tutto da chiarire. Eppure, questa è anche una storia di grandi successi, della prima vera svolta nella strategia dello Stato contro Cosa Nostra. E allora per comprenderla bisogna ripartire dal 10 febbraio dell'86. Nell'aula bunker del carcere del Lucciardone di Palermo si apre il maxi processo alla mafia. A parlarcene il magistrato Leonardo Guarnotta. Buscetta è stato importantissimo perché è stato il primo collaboratore di giustizia, dotato di grande carisma, il quale ci ha fatto capire cos'era Cosa Nostra all'interno della struttura, perché fino allora si era intravisto questo scenario, ma il muro dell'omertà, sulla quale si è sempre basata Cosa Nostra, la situazione mafiosa, ci aveva impedito di poter penetrare. Dalle dichiarazioni di Buscetta emerge la struttura di Cosa Nostra. Un vero e proprio Stato nello Stato, con un governo, una commissione provinciale e un organo deliberativo. Giovanni Falcone apre i pacchi dei documenti sequestrati che erano sempre rimasti chiusi. Li esamina, studia gli assegni e la sua indagine parte dai soldi. Cerca, dietro ogni assegno, dei collegamenti tra l'imputato e altri personaggi. Veda, noi facevamo una squadra dove sapevamo che c'era un fuoriclasse, c'era il caso Maradona del caso, e tutti gli altri, compreso anche Paolo, che era allo stesso livello del collega Falcone, e poi c'eravamo un altro due che collaboravamo, ben consapevoli di quello che era il nostro ruolo: Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo Guarnotta e Giuseppe Tirello Fimoli. Perché come in una squadra c'è il portatore d'acqua e c'è poi il fuoriclasse che pensa a mettere a segno il gol. In questo caso il successo del Puma Antimafia. Apertosi il 10 febbraio 1986 nell'aula bunker del carcere del Lucciardone, dopo 349 udienze, 1314 interrogatori, 635 arringhe difensive, il 16 dicembre 1987 il presidente della Corte d'Assise Alfonso Giordano legge la sentenza di primo grado. È stato un fatto innovativo, non è mai successo che il gota mafioso sostanzialmente fosse chiamato a rispondere delle sue malefatte di fronte a un tribunale che li giudicava in nome del popolo italiano. In quella sentenza l'importanza non è soltanto, per carità, non la voglio anche sminuire, i 19 ergastoli dati a tutti i capi di Cosa Nostra, tutti scoperti, e i 2000 più anni di carcere dati agli altri mafiosi, condannate più di 300 persone, ma secondo me la cosa più importante è che lì c'è scritto tutto quello che c'è da sapere sulla mafia. Cioè, da quel momento non c'è più niente da scoprire. Solo qualche anno prima tutto questo era avvolto da una nebbia impenetrabile. Insomma, io direi che è il punto, io ho sempre definito il punto di non ritorno. Avete sentito il magistrato Giuseppe Ayala? La sentenza del 16 dicembre dell'87 è un punto di non ritorno nella lotta alla mafia. Falcone è un trionfatore. Lui ha seguito la pista dei soldi, ha ottenuto la collaborazione di un super pentito come Tommaso Buscetta, ha istruito con i suoi colleghi il primo maxi processo contro la mafia e ha ottenuto le condanne di quasi tutti gli imputati per un totale di oltre 2000 anni di carcere. È il riscatto dello Stato e della Sicilia, eppure un trionfo di breve durata. Neanche un mese dopo, nel gennaio dell'88, per Giovanni Falcone arriva la prima grande sconfitta della sua vita, come spiega il magistrato Giuseppe Ayala.

Ce ne parla l'allora ministro della giustizia Claudio Martelli. Fu indetto addirittura uno sciopero nazionale dei magistrati contro l'istituzione della Procura Nazionale Antimafia. Non sono solo i colleghi magistrati ad aver attaccato Falcone in ogni modo. Leoluca Orlando, che gli era stato amico, lo aveva unito in matrimonio con Francesca Morvillo, nell'ultimo periodo in cui Falcone era magistrato a Palermo, lo accusa di tenere le carte nei cassetti e fa un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura. Falcone va al CSM a difendersi e dice questa frase: «La cultura del sospetto non è l'anticamera della verità, è l'anticamera del comeinismo». Ascoltiamo Leoluca Orlando che risponde così il 25 gennaio del 93, intervistato a Mixer, incalzato anche dalle domande della sorella di Falcone, Maria. Comunque lei, dopo essere stato amico molto intimo di Falcone, divenne suo feroce avversario. Lo accusò di aver tenuto le carte ferme nei cassetti. Ecco, ma oggi ridirebbe una cosa del genere? Quella mia dichiarazione risale al maggio del 90, quando procuratore della Repubblica di Palermo era Gianmanco, un personaggio che ho criticato, sì, e continuo a criticare. Però i processi politici li aveva in mano Falcone, quindi questo vale per Falcone. Era diretto però tutti a Falcone, sanno che Giovanni Falcone fu costretto a lasciare Palermo. Sì, ma lei ridirebbe questa frase come avrebbe voluto. Lei ridirebbe questa frase? Io considero Giovanni Falcone e tanti altri magistrati delle vittime di un sistema nel quale Gianmanco era sicuramente un pezzo di sistema. Senta, ma lei lo sa che Falcone era molto molto amareggiato per il suo attacco? Lo posso immaginare, ma... la cosa mi fa molto male. Abbiamo la sorella di Giovanni Falcone, Maria Falcone, che ha una cosa da chiederle. Io voglio chiedere ora quello che Giovanni, nella posizione istituzionale in cui si trovava, non ha potuto chiedere. E cioè? Voglio sapere dal dottore Orlando perché ha deciso di infangarne il nome e la dignità. Ecco, Orlando vuole rispondere. No, io voglio soltanto ripetere le cose che ho detto e che dicevo e che ho sempre detto. L'esistenza di politici che chiedono verità e giustizia dovrebbe aiutare i magistrati. Così, allora però... lei non doveva accusare Giovanni, ma io non ho determinati problemi. Io ho criticato la procura. Delle accuse specifiche, signora, io ho criticato Giovanni, no, al Consiglio Superiore della Magistratura. Io ho criticato. Quindi lei non l'ha difeso da Gianmanco, lei ha condannato Giovanni. Io ho criticato la procura della Repubblica di Palermo quando il capo dell'ufficio era Pietro Gianmanco. Grazie signora, grazie. Comunque, vorrei delle risposte più precise dall'onorevole Orlando. Falcone disse di Orlando: a quanto sembra Orlando ha bisogno sempre di tenere alta l'attenzione. Un po' una frase alla Sciascia, no? Cioè esiste un'antimafia che ha bisogno sempre di rilanciare. Intanto siamo nel gennaio del 1992 e la Cassazione si appresta ad esaminare le condanne del maxi processo. Nell'imminenza del verdetto, un colpo di scena. Il ministro della giustizia, Martelli, scompagina la routine dell'estrema corte e con Falcone si inventa i processi assegnati per rotazione. Da quel momento in poi nessuno avrebbe avuto la certezza del giudice che lo avrebbe giudicato. Il 30 gennaio del 1992 la Cassazione conferma gli ergastoli del maxi processo, sancisce la validità del teorema Buscetta e soprattutto spezza il mito dell'impunità della mafia. Ce ne parla Giuseppe Ayala. Sono state le 8 di sera, squilla il mio telefono e dall'altro capo del filo c'era Falcone, il quale mi dice una sola frase: complimenti Ayala, hai vinto. Io capii benissimo a cosa si riferiva e disse: Falcone, ti correggo, tutto al più abbiamo vinto. E lui mi disse: no, che c'entra? Tu hai sostenuto l'accusa, a te hanno dato ragione. Ora, può sembrare una battuta, forse in parte lo era, però l'uomo era fatto così. Inutile ribadire che senza Falcone e i giudici istruttori il maxi processo non sarebbe mai nato. Il 6 marzo 1992, dal carcere di Sollicciano, un detenuto, Elio Ciolini, scrive al giudice Leonardo Grassi. Ci sarà una nuova strategia della tensione in Italia nel periodo marzo-luglio 1992. Avverranno esplosioni dinamitarde e l'omicidio di un esponente politico PSI, PC, DC. Solo 6 giorni dopo, la profezia di Ciolini si avvera. Il 12 marzo a Mondello viene ucciso Salvo Lima, europarlamentare della DC, esponente politico di spicco della corrente di Andreotti in Sicilia. Il Parlamento è in stallo, non si riesce ad eleggere il nuovo Presidente della Repubblica e quindi nemmeno a formare il governo. Colpiscono le note dell'Agenzia Repubblica che così dicono. C'è da temere a questo punto che qualcuno rispolveri la tentazione tipicamente nazionale al colpo grosso. Nella seconda, il 22 maggio, ancora si legge: i partiti, senza una strategia della tensione che piazzi un bel botto esterno come ai tempi di Moro, a giustificazione di un voto d'emergenza, non potrebbero accettare di autodelegittimarsi. Doveva arrivare a Palermo la sera prima, ma aveva aspettato Francesca e mi ha detto invece non sarò il venerdì sera a casa, ma verrò sabato. Non l'abbiamo visto più. Francesco Lalicata, giornalista e amico di Falcone. Sono passati 22 anni da quel tragico 23 maggio e oggi inizia il nuovo processo sulla strage di Capaci dopo le nuove indagini fatte dalla Procura di Caltanissetta. Su che cosa hanno indagato i magistrati? Credo che sia ormai sotto gli occhi di tutti. Hanno indagato più sui depistaggi che sul movente e sull'esecuzione della strage, perché il buco nero di questo periodo della nostra storia recente, che è il 1992 e aggiungo io 93 e una parte del 94, sembra proprio che in questo periodo sia accaduto qualcosa di molto strano, di molto ingarbugliato e che possa avere coinvolto a livello istituzionale delle responsabilità che ancora sono tutte da accertare. Depistaggi quindi da parte di chi? In genere i depistaggi li fanno chi indaga, quindi da quello che è venuto fuori finora mi sembra evidente che il depistaggio sia stato compiuto da una parte degli investigatori che si occupavano della strage. Resta da stabilire se il depistaggio è stato un atto voluto per confondere le idee, per indirizzare le indagini in una direzione piuttosto che in un'altra, oppure se con tutto ciò è da attribuire ad un'ansia di risultato, come a dire una ricerca a qualunque costo di un colpevole e quindi di un disguido, ecco, di un incidente investigativo. Ma hanno già dei nomi di persone che potrebbero aver depistato? Sì, sono i poliziotti che stanno indagati, ma per un reato che è già praticamente prescritto, quindi non vuol dire niente, questo vuol dire... Parliamo di Genchi o nomi? No, che... perché insieme con Genchi c'erano altri quattro. Quindi Genchi e altri quattro? E altri quattro che sono indagati per la storia di Scarantino più che altro però. Proprio a lei Giovanni Falcone aveva parlato di appunto poteri occulti, servizi deviati, insomma già Falcone sapeva? Falcone non che sapesse nel senso che avesse delle certezze, però siccome stupido non era ed era un fior di investigatore, quando gli misero la bomba alla Daura, lui disse esplicitamente si è materializzato un legame tra l'organizzazione criminale e degli ambienti istituzionali deviati. Sì, quando parlò di menti raffinatissime sicuramente si riferiva ai servizi di sicurezza, ma io penso anche a settori della finanza, della massoneria. Lui questo l'aveva chiaro, fra l'altro l'aveva detto esplicitamente più di una volta pubblicamente in un convegno, per esempio mi ricordo a Roma, disse con molta nonchalance, facendo tremare però quelli che lo ascoltavano, la mafia è entrata in borsa. E lì si riferiva soprattutto alle indagini che era in corso sulla Calcestruzzo, che operava nel settore degli appalti pubblici a Caltanissetta. Crede che esista il diario di Falcone, lei che lo conosceva bene? Non un diario, lui non fa, però appuntava delle cose, non con la finalità di un diario, cioè lui appuntava delle cose che riteneva importanti per poi svilupparle. Io penso che qualcosa nei suoi computer deve esserci stato. Ora, se i suoi computer sono stati manomessi, sarà un'ennesima indagine a stabilirlo. Dall'altra parte, ma perché secondo lei? Perché questi non sono omicidi di mafia, questi sono omicidi del potere, e il potere tende sempre a salvaguardarsi e tende sempre a imbrogliare le acque in modo che si raggiunga una verità, magari anche una verità processuale, ma che non è la verità di come sono andate le cose. Le puntate di Mix 24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it e nella pagina dedicata a questa trasmissione. E ringrazio Alessandro Longone, Antonella Migliaccio, Rachele Bonani, il mitico Manuel Guerrini, in redazione Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.